probabilmente aumenteremo il tempo dedicato alla musica a scapito delle parole, e questo non perché il protagonista della nostra storia sia meno importante di altri, anzi, in realtà difficilmente nelle nostre ricerche abbiamo incontrato personaggi così schivi, desiderosi di mantenere la loro privacy, poco interessati a svelare quelle parti di sé che non hanno a che fare direttamente col loro mestiere. Oggi parliamo di Mark Hollins, l'anima dei Talk Talk, di quella band che negli anni '80 ha fatto vibrare l'anima di molti di noi con canzoni che definirei perfette: It's My Life, Such a Shame. L'avventura con i Talk Talk aveva costretto Hollins a mostrarsi, a uscire allo scoperto, a fare concerti, interviste, cose che per lui erano veramente al limite della sofferenza. Quando la band si è sciolta, lui non ha smesso di fare musica, anzi, però finalmente ha potuto sparire nello sfondo, non avendo mai più toccato successi planetari, ha potuto vivere con quella riservatezza che gli era congeniale. La musica è diventata per lui un'arte concepita più per sottrazione che per raggiunte, ben lontana dalla rivalsa sociale competitiva che la musica ha assunto come cifra stilistica negli ultimi anni. E anche perché a Mark Hollins i silenzi interessavano più delle parole, a volte addirittura più delle note. Quello che lo affascinava erano i momenti sospesi, gli intervalli che precedono la nota seguente. E in realtà i grandi musicisti sono quelli che sanno anche non suonare in un punto della canzone, che sanno sottrarre, diffidate di quelli che suonano sempre dall'inizio alla fine, e sono quelli che hanno un ego più potente del loro talento. E lui invece amava la rarefazione del suono, l'utilizzo frammentato dello strumento musicale. Questo suo pensiero, peraltro, poi lo ha tradotto nel suo unico disco a suo nome, proprio a suo nome letteralmente, perché non aveva neanche un titolo, un disco che vi consiglio di cercare di ascoltare, ne parleremo più avanti. Mark Hollins se n'è andato recentemente, morto a soli 64 anni, una fine arrivata troppo presto, forse anche per cercare di sconfiggere lì nell'ottabilità della morte. Oggi raccontiamo la sua storia, o forse è meglio dire raccontiamo la sua musica. Mark Hollins nasce il 4 gennaio 1955 a Tottenham, parte nord di Londra, zona difficile, violenza endemica, a volte sedata, a volte invece infiammata. Tutto ruota attorno alla squadra locale, ovviamente il Tottenham, squadra della Premier League, è l'unica gioia, l'unico vanto del quartiere. Peraltro il Tottenham che nasce dalla parte ebraica del quartiere di Tottenham. Per il resto, insomma, siamo in periferia, ed è la storia di ogni periferia delle grandi città. Da lontano arrivano gli stimoli, arrivano i bagliori, la speranza di una vita diversa, arrivano forse anche le opportunità. C'è la voglia di salvarsi dall'ordinario, di sfuggire alla mediocrità, cosa difficilissima se parti da quartieri come quello. E sappiamo tutti che lasciare la propria storia per andare a conquistarsi un'esistenza diversa è un'impresa molto dura, soprattutto quando il mondo non ti vuole, non sta certo aspettando te. Però questa è l'impresa che alcune persone sentono l'impulso di affrontare. Mark fa parte proprio di questa genia, come molti personaggi dei quali abbiamo parlato in questi anni, persone che hanno dentro qualcosa che non si spegne, che non si piega sotto i colpi della vita, persone pronte a abbandonare la comodità del prevedibile, pronte a combattere la assuefazione all'abitudine, persone che non hanno un piano B, e forse proprio per questo riescono a spiccare il volo, a battere le ali verso nuove destinazioni. Hanno un pensiero solo: non mi basta, questo non sono io, posso dare di meglio. È un pensiero che può smuovere montagne, attraversa gli oceani, magari riesce a trasportarti da Tottenham al centro della musica. Non sappiamo molto di Mark Collins, famiglia normale, due fratelli, lui ha dato di sé scarsissime informazioni, pare che abbia lasciato il liceo prima di diplomarsi e in altri momenti ha rivelato di avere seguito un corso di psicologia infantile all'università del Sussex. Evidentemente lo studio non è stato una tappa importante per lui, già da ragazzino l'unica cosa che gli interessava era la musica, per lui la scuola è solo quell'infinito momento che lo separa dalla sua camera dove può provare a comporre note e parole, il resto non ha senso, insomma per molti la scuola è proprio solo un ostacolo tra te e te stesso. È capitato a molti questo periodo dell'adolescenza, a me per esempio, la voglia di suonare con gli amici, si radunava qualche soldo per poter andare in una sala prove, ecco per Mark Collins quel momento era la vita, la ragione stessa della vita. Non aspettavo altro che di tornare a casa e iniziare a scrivere canzoni e testi. Tutto il giorno a scuola passavo il tempo a scrivere le idee sul quaderno e aspettavo solo il momento in cui avrei potuto registrare tutto sul nastro. E i gusti musicali di questo ragazzino sono eclettici, solidi però, perché gli piace il buon rock, ma gli piace Otis Redding, Burt Bacharach, i Can, gruppo prog di quegli anni. Ma lui sostiene anche che il miglior spettacolo dal vivo che lui abbia mai visto è stata una performance della Sinfonia numero 10 di Shostakovich alla Royal Festival Hall di Londra. Lui è un eclettico comunque, fa il tecnico di laboratorio per vivere la sera, segue il fratello grande, lui fa il DJ in un posto punk, siamo nella metà degli anni 70, a Londra sta per esplodere tutto, la Gran Bretagna che si sveglia, ammesso che si fosse mai addormentata, scoppia la bomba più violenta che la musica abbia mai prodotto, una specie di band punk, infatti è la sua prima esperienza. La sua prima creazione, forse post-punk, in quel momento insomma le etichette sono fluide, arrivano una dietro l'altra, si fanno chiamare The Reaction, hanno appena il tempo di produrre un singolo e si sciolgono, però Mark impara la lezione, questa prima esperienza lo convince di avere trovato la sua strada. Fino al punk non avrei mai immaginato di poter ottenere un contratto discografico, perché non pensavo di poter suonare. Ma il punk diceva: se credi di poter suonare, puoi suonare. E dai Reaction Mark porta con sé molto, a partire da tre suoi ex compagni, il bassista Paul Webb, Simon Brennan alle tastiere, Lee Harris alla batteria, insomma insieme decidono di formare un gruppo nuovo, questa volta lo chiamano Talk Talk. L'ispirazione viene da una canzone scritta da Hollis per una demo dei Reaction intitolata Talk Talk Talk Talk. E nel primo album The Party Is Over, siamo nell'82, la canzone viene rifatta riducendosi ha solo due, Talk Talk, che poi rimane il nome della band. In quel periodo Mark è il motore del gruppo, per Paul Webb la sua personalità era già sui generis, era già un tipo particolare. Non avevo mai conosciuto nessuno come Mark. Era un personaggio molto determinato, sapeva esattamente cosa gli piaceva e mi faceva ascoltare tantissimi dischi che non conoscevo, cose come The Seeds of Love, ma anche Erik Satie e Miles Davis, quando io ancora ascoltavo solo i Joy Division. In effetti nella nuova band Hollis non porta solo la sua esperienza punk o post-punk se preferite, porta nuove sonorità perché il fratello Ed lo ha introdotto anche al jazz, gli ha fatto ascoltare Ornette Coleman, Miles Davis, lo ha introdotto al progressive rock, i King Crimson per esempio, e quando i Talk Talk iniziano a lavorare hanno un bagaglio musicale dietro considerevole. All'inizio vengono in maniera superficiale assimilati ai Duran Duran, forse anche perché hanno il nome ripetuto, si trovano anche a suonare come gruppo d'appoggio in un tour dei Duran Duran che nel frattempo stanno prendendo il volo, stanno trasformandosi in un fenomeno musicale, condividono anche lo stesso produttore discografico. La verità è che Hollis lo sceglie quel produttore perché ha lavorato non tanto ai Duran Duran ma anche con Bowie per l'album Eros. In verità non c'è niente di simile tra i Talk Talk e i Duran Duran. anzi Aulis il paragone ha sempre dato molto fastidio, perché lui voleva proprio allontanarsi da quell'idea della musica. Nel 1983 i Talk Talk rimangono in tre, se ne va il tastierista Simon Brenner e nessuno pensa sia necessario rimpiazzarlo, un po' perché Hollis suona anche le tastiere, un po' perché spunta fuori una figura, si chiama Tim Freeze Green, diventerà una presenza costante del gruppo, suona le tastiere, collabora con Mark alla scrittura dei pezzi, e con questa nuova formazione la band è pronta per un nuovo passo avanti, questa volta è un passo da gigante. Nel 1984 esce l'album It's My Life e dentro ci sono due pezzi che entrano nella storia della musica degli ultimi 40 anni, It's My Life e Such a Shame. Sono pezzi che non assomigliano a niente che sia stato fatto prima di allora. Per It's My Life la band va a registrare i versi degli animali allo zoo di Londra di notte per girare un video che mostra subito, insomma, di che pasta sono fatti. Nella prima versione infatti Mark Hollis è in piedi davanti a una gabbia dello zoo con le mani ficcate nelle tasche del cappotto, ostinatamente a bocca chiusa, quindi sbagliando volutamente il sync con il playback, diciamo. A volte ci sono solo dei segnetti neri che si muovono sopra la sua bocca, insomma è trasgressivo, stilisticamente è diverso dallo spirito corrente. La EMI, la sua casa discografica, ovviamente non capisce e gli chiede di rigirarlo. Però a parte il video, l'album It's My Life comincia a piacere, forse più in Europa che in Inghilterra. In quel periodo l'Inghilterra è troppo presa dalla rivalità Duran Duran Spandau Ballet, e loro sono troppo diversi, è diverso lui, Mark Collins, è un periodo in cui vanno le camicie sbottonate romantiche, la Simon Le Bon, i completi elegantissimi di Tony Hadley, cioè il cantante deve essere un bellone, acchiappa ragazzine, lui invece non è così, ha gli occhietti piccoli, ravvicinati, spesso con degli occhialini tondi come fosse John Lennon, con un cappellino di lana sempre in testa come Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo. Insomma, è troppo strano per essere l'idolo delle ragazzine. E poi ha la voce che sappiamo, è una voce particolare, un po' nasale, è una voce che sembra arrivi da un posto lontano, come se si fermasse sulla porta e poi volesse tornare indietro. Insomma, questa è la voce di Mark Collins, è una voce unica, va capita, non tutti la capiscono. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mark Collins, anima dei Talk Talk, il gruppo inglese degli anni Ottanta, che ha sempre avuto una storia a sé, ha partecipato a un altro campionato, una storia strana, particolare, bellissima. Stiamo raccontando a fatica questa storia perché Mark Hollis è proverbialmente, insomma, uno dei personaggi più riservati dell'intera storia della musica rock, refrattario alla notorietà. I colleghi lo considerano un genio, ma lui si è sempre tirato indietro, esibito poco, poche interviste, pochi reperti. Quando è scomparso recentemente tutti hanno commentato la sua perdita con dolore, con rimpianto per la sua capacità. Sentite per esempio cosa dice di lui Roland Orzabal dei Tears for Fears. Era un dio tra i tanti comuni mortali della musica degli anni Ottanta. In effetti, dare il marchio di musica anni Ottanta a ciò che ha fatto con i Talk Talk significa screditare il genio che trasudava dalle sue melodie e dai suoi testi. Testi che a volte riuscivano a malapena a uscire dalla sua bocca, come se volesse mantenere il segreto più nascosto del mondo tutto per sé. Il mondo di Mark Hollis è un mondo sotterraneo, segreto, si muove un po' come uno degli insetti che a lui piaceva mettere nei suoi video. È un notturno, è uno che scava nell'anima di chi lo ascolta, scava i tunnel nella terra proprio. La sua ricerca prosegue per tutta la sua produzione musicale, riesce a trasformare i Talk Talk da band pop a gruppo raffinatissimo. Il terzo album esce nell'86, si chiama The Colors of Spring. Spring e porta avanti questa sperimentazione. Due grandi pezzi, Life's What You Make It, Living in Another World, e si alza l'asticella proprio. Il disco comunque riesce a avere successo, intanto in Europa, soprattutto in Italia. Life's What You Make It viene suonato dai Talk Talk addirittura a Sanremo, in una edizione presentata da Loretta Goggi con Sandro Ciotti e la Pettinelli alla co-conduzione. Peraltro c'ero in quel festival di Sanremo, cantavo Rien ne va plus, e i Talk Talk arrivano un po' da outsider, perché lì le ragazzine erano tutte per gli Spandau Ballet, i Duran Duran, però mi colpivano loro proprio perché non volevano entrare nella mischia. E dopo Sanremo sono ospiti addirittura anche a Super Flash, condotta da Mike Buongiorno, Mark che indossa i suoi occhiali tondi, osserva Buongiorno un po' divertito, un po' perplesso, e neanche in questo caso dà prova di essere un grande chiacchierone. Ma adesso, soprattutto per i giovani, penso che la sorpresa sarà ancora più interessante e più gradita, perché si tratta di un complesso che sta andando per la maggiore, ha spopolato in Inghilterra in questi ultimi due anni ed è praticamente al suo debutto in Italia, e quindi noi siamo tra i primi a presentarveli. Sicuramente faranno uno sbrego, se posso usare questa parola, e soprattutto voi giovani, che so seguite il mio mini show quando soprattutto abbiamo questi personaggi, sarete molto contenti. Signori, avremo modo di dirvi qualcosa a proposito di questi ragazzi dopo che avremo ascoltato la loro esecuzione. Intanto vi dico che il titolo di questa canzone, ecco, purtroppo non mi è stato detto, ma credo che sia It's My Life, probabilmente, ecco, questa è la mia vita, questo è il titolo, poi ci spiegheranno perché si chiama così. Comunque, signori, si chiamano i Talk Talk. Sapete che cosa vuol dire talk in inglese? Parlare. Quindi praticamente tradotto in italiano sarebbero i parlare parlare. Si vede gente che chiacchiera molto. Signori, a Super Flash, nel nostro mini show, abbiamo il piacere di ospitare i Talk Talk. The Color of Spring entra nella top 20 di tutti i maggiori paesi europei, regala ai Talk Talk una nuova fase di celebrità, ma per loro, soprattutto per lui, questa non è una cosa importante. Quello che interessa a Mark Hollis è che la fama gli può regalare libertà. Il successo e il sostegno che abbiamo ricevuto da dopo l'album It's My Life ci ha dato la possibilità di fare The Color of Spring, dove abbiamo messo idealmente quello che erano i nostri veri desideri. Nell'album ci sono le cose che amiamo, perché ci siamo trovati nella posizione di non dover fare qualcosa che non ci piace, ma solo quello che sentiamo veramente. E questo stato di cose prende una piega ancora più radicale per il quarto album della band. Si chiama Spirit of Eden, e per l'occasione Mark Hollis e Tim Frisgreen si chiudono in sala di registrazione, lavorano a lungo, improvvisano, anche perché, e qui torna al discorso che il denaro e il successo, se ben usati, danno grande libertà, la Amy ha dato ai Talk Talk un budget praticamente illimitato. Sono convinti che anche il nuovo lavoro sarebbe stato un grande successo commerciale, ma loro usano le ore di sala di registrazione per creare qualcosa di nuovo e non per assecondare la major. Mark adesso vuole fare a modo suo, i suoi interessi sono rivolti sempre più al jazz, a Miles Davis, al folk, al progressive. C'è un tecnico del suono nuovo, si chiama Phil Brown, è uno che trascorre mesi in questa specie di brodo primordiale fatto di musica e di sensazioni particolari. Vivevamo in uno studio sempre al buio, con solo un proiettore a olio nella sala di controllo, delle luci stroboscopiche e 5 macchine da 24 tracce sincronizzate insieme. È stata un'esperienza davvero intensa, 12 ore al giorno trascorse nell'oscurità, ascoltando le stesse 6 canzoni per 8 mesi. C'era pochissima comunicazione anche con i musicisti che venivano a suonare. Venivano portati in questo studio immerso nell'oscurità e gli veniva solo data una traccia riprodotta nelle cuffie. E quando Mark sente che l'album è pronto, manda una cassetta demo alla EMI, alla EMI, come diciamo noi. Uno dei dirigenti di allora ricorda ancora il nervosismo, l'incomprensione totale nei confronti del risultato. 6 canzoni, nessuna che abbia le caratteristiche di una hit. Pezzi lunghi, sonorità rarefatte, la voce di Hollis Hollis che si fa remota, insomma la Amy con orrore si rende conto che il prodotto non ha alcuna possibilità di vendere, e infatti è così. Qualche critico lo definisce quel genere di disco che incoraggia gli uomini del marketing a suicidarsi. La casa discografica tenta disperatamente di chiedere a Mark di sostituire, di aggiungere una traccia che sia più accessibile, nessun risultato. L'unica concessione di Hollis è quella di fare un video da uno dei brani I Believe in You, una decisione che peraltro in seguito lui si pentirà anche di aver preso. È stato un grosso errore. Pensavo che stando semplicemente seduto lì, mentre ascoltavo e pensavo a cosa davvero dicessi, avrei potuto trasmetterlo con gli occhi. Ma non è stato così. È stato semplicemente stupido da parte mia. Il brano è molto bello, è ipnotico, parla di droga, parla contro la droga, insomma, ne evidenzia gli aspetti terribili. Tutto questo comunque, insomma, non basta assolutamente a rendere il disco una hit. Hollis l'aveva già messo in conto da quando ha deciso di non interpretare la parte della pop star, sa che c'è un prezzo da pagare, ma lui va bene così. Non è un uomo dalle mille pretese, non è uno che cerca le belle case, i party, tutto il pacchetto, diciamo, che arriva assieme al successo. Lui interessa solo la musica. Se questo gli può procurare addirittura la rottura di un contratto con una multinazionale, lui è disposto al sacrificio. D'altra parte, insomma, è evidente che la Amy e la band sono su strade molto distanti. È evidente anche al loro manager Kate Aspden, che fa di tutto per interrompere questa collaborazione. A quel punto avevo capito che la Amy non era la casa discografica adatta a questa band. Temevo che non avrebbero messo i soldi per registrare un altro album. Nasce una causa che va a fasi alterne. Alla fine i Talk Talk sono liberi, firmano per la Polydor senza dover pagare penali. Sono rimasti in tre, compreso Freeze Green. Nel 91 pubblicano un nuovo album, Lost in Stock, ancora più minimalista di prima. Questo imprevedibilmente sale un po' nella classifica inglese, arriva al 26esimo posto. Forse un po' stanno cambiando i gusti, l'ubriacatura, diciamo, pop degli anni 80 sta lasciando il posto a altre cose, e tra queste anche c'è un, come dire, un settore di mercato rivolto a un sound più intimista, e in fondo stanno solo facendo da apripista alla musica di gruppi come i Radiohead, cioè il mondo intimo essenziale e rarefatto. Ci sono queste due diverse aree della musica che di solito sono lontane l'uno dall'altra. Da una parte c'è la spontaneità, la libertà, e dall'altra c'è la necessità di avere una texture degli arrangiamenti molto costruita. Quello che abbiamo cercato di fare con quest'album è stato di avvicinare queste due cose per una volta. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. E dopo la pubblicazione di Lost in Stock, Mark Collins sente di avere dato tutto quello che poteva ai Talk Talk e il gruppo si scioglie. Mark in realtà non è più disposto ad andare in tour, lui non è mai stato un animale da palcoscenico, ha una natura timida e riservata, è sempre stato più un nerd da studio che una rock star. E in fondo i Talk Talk sono questo, sono stati un gruppo diverso dagli altri, ognuno aveva una sua autonomia, un suo progetto personale. Dopo Spirit of Eden tutto è andato alla deriva. Non abbiamo più fatto concerti. Così Tim ed io abbiamo lavorato insieme e ci incontravamo con gli altri solo durante le sessioni di registrazione. Questa situazione ha permesso a tutti noi di iniziare qualcosa di nuovo. Quando finimmo Lost in Stock, Lee e Paul avevano comprato uno studio e lavoravano già a un loro progetto. Ma c'è un'altra ragione per cui Hollis non ha più voglia di fare concerti. Un giornalista glielo chiede: come mai vuoi smettere? Lui risponde: ho scelto la mia famiglia. Forse gli altri sono in grado di farlo, ma non posso andare in tour e essere un buon papà allo stesso tempo. E già, perché adesso Mark ha una moglie che è un'insegnante, ha due figli, si è trasferito in campagna vicino a Wimbledon, non vuole caos, gli interessa solo stare con la sua famiglia e imparare nuova musica. Perfino la musica che studiano i figli a scuola lo interessa di più delle classifiche della pop music. Ascolta suoni diversi o semplicemente ascolta il silenzio. Insomma, vive in controtendenza rispetto a tutte le rockstar di quel periodo. Mi piace il silenzio. Vado molto d'accordo con il silenzio. Non ho nessun problema, è solo silenzio. Non posso immaginarmi senza fare musica, ma non sento alcun bisogno di esibirmi o di andare in sala di registrazione. Sono davvero felice anche di suonare una sola nota e di ascoltarla con diversi livelli di volume e ascoltarla ancora prima che si fermi. C'è un articolo molto interessante di Mauro Fenoglio sulla rivista Rumore. Qui si paragona Hollis a un personaggio di Melville, Bartleby lo scrivano, l'uomo che di fronte alle richieste pressanti del mondo risponde cortesemente: preferirei di no. Fenoglio scrive questo: il preferirei di no di Bartleby è la stessa frase sussurrata più volte da Hollis all'industria musicale, dagli anni dei primi screzi con la EMI, per le scelte artistiche, fino alla svolta per sperimentale di Talk Talk, fino all'abbandono della musica, che è quasi un atto naturale. Il viaggio era stato compiuto, album irripetibili erano stati prodotti. Preferirei di no continuare a stare dalla parte opposta rispetto a come dovrebbero andare le cose. Preferirei di no per uscire di scena a fine degli anni 90, senza rivendicare eroismi, assentandosi dolcemente, però in modo non negoziabile. E con questo stesso spirito non negoziabile, Hollis torna in sala di registrazione per l'ultima volta nel 1998. È un album da solista il suo nuovo progetto, senza titolo come quasi sempre, solo col suo nome. Il sito AM Music lo definisce il disco più tranquillo e intimo mai realizzato prima d'ora. Insomma, è il disco perfetto per uno come Hollis, bellissimo, acustico, lunghe ballate suggestive che sembrano più composizioni di musica classica contemporanea che non pop rock. Insomma, l'opera che riflette l'anima di un uomo timido, gentile, profondo, che non ha mai voluto essere una pop star, ha sempre voluto essere solo un garbato compositore. Ho una forte affinità con il suono acustico e con le caratteristiche naturali degli strumenti. Volevo che diventassero parte del paesaggio sonoro della stanza. È un disco che è stato registrato molto silenziosamente. Ci sono stati momenti in cui a livello vocale sentivo di non riuscire quasi a emettere suoni. Infatti dalla pubblicazione di questo album Hollis non emette più suoni, almeno non per il pubblico che lo ha amato. Torna sullo sfondo, si mescola di nuovo col silenzio, con la quiete, non si sa più nulla di lui, non si mostra, non gli interessa fare parte ancora di quel mondo discografico che per lui non significa niente. Sparisce per ritrovare il suo tempo, il suo ritmo personale. Forse se lo sentiva che sarebbe morto molto presto, forse si sentiva che la sua vita sarebbe stata breve, non gli era concesso perdere tempo in sciocchezze, in esibizioni di se stesso. Non aveva tempo e voglia di disperdere emozioni, sentimenti. Voleva sfruttare al massimo il tempo che gli rimaneva, voleva stare accanto ai suoi veri amori, moglie, figli, la sua musica, non la musica, la sua musica. Il resto non aveva importanza. Arriva la malattia implacabile, gli concede un tempo ridottissimo per fare la spunta delle cose che ha voluto fare, e alla fine, insomma, io credo che Hollis fosse sereno, con la coscienza precisa di avere fatto quello che lui doveva e voleva fare. Ha avuto una vita piena, breve ma ricca di amore e musica. E i colpi d'ala non sono tutti necessariamente rumorosi e pienamente illuminati. Ci sono anche colpi d'ala con un altro tipo di classe, se volete. Sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.